sento nessun problema, pur avendo il segnale forte, eppure più forte di questo. Ci sono, vedete un pochino, ha cambiato qualcosa? Prima Roberto, vai Roberto, vediamo se vuole il mio segnale. Guarda Roberto, questo è l'altro amplificatore, dovrebbe essere un po' inferiore, però secondo me mi sarà un po' più vasto. Allora, il segnale è quasi 9+20, con i picchi arriva a 9+20, si è appena un pochettino, però la radio forse l'altra è meno, è la più naturale l'altra, questa la sento un pochettino più rimbombante, dai, più tipo effetto camera, sembra che sia un'altra stanza. No, vabbè, questo è sempre stato il mio, diciamo, è che la stanza è grande, quindi è un po' rimbomba, e poi c'è anche un po' di casino. Mi interessa di segnale. Il segnale forse l'altro un peluzzino di più, segnavo di meno, questo mi segna quasi 150, l'altro invece 100. Ma di 150 cosa? Come? Di picco te li dà? Prego! No, 150 diciamo è stabile, poi appena si muove questo di picco. Sì, invece l'altro era 100 stabile. C'è un break, beh, ma la differenza non è notto, io tino, 9:20 sì, sempre. Avanti break, e dopo questo passaggio io vi lascio e vado a cenare, ok? Ciao Roberto, ciao Tino, avanti break, buonasera, Claudio Sparviero in QRT. Ehi, buonasera, entro io in QRT, oi. Buonasera a tutti. Ciao Bomboli, devo andare a magnà, ciao, a dopo. Va che non c'è problema. Buonasera anche a te Tino e a te Roberto e a tutti quelli della ruota. Anche io però devo andare a mangiare, che c'è un certo langurino, per cui mi dispiace tu. Oggi è andata male, sei venuto troppo tardi, dai. E ci sentiremo dai alle prossimine. Avanti Tino, io vi saluto a tutti quanti, ci sentiamo male in un altro momento. Guardati da parte mia che c'ho un po' di famina da mangiare. Va bene, ciao Claudio, ciao Roberto, ciao Antonio. No, è giusto per vedere se c'era qualcosina di differenza, ma a quanto pare non cambia, c'è un po' di barame qua. Riprendi Antonio. Capa, a parte mia c'è 9+20 in radio 5, abbastanza forte, alla grande. Sì, vabbè, non avevo dubbi, che stavo provando un altro amplificatore, capito, quindi volevo sapere la differenza tra uno e l'altro. Kappa, no, già arrivi forte qua, arrivi. Io non so come ti sto arrivando lì da te, ma qua sei 9+20. Guarda, ti do il segnale se vuoi, arrivi a 9, ma questo è un baracchino, non so se ce l'è presente, la KR5005, quindi a scala, non so quanto possa essere affidabile. Va bene, dai, anche io adesso mi metto un po' a posto le cose, poi vado a fare una luce perché devo ancora sciacquarmi dal lavoro, quindi devo prendere la quantità del giorno. Kappa, dai, ti lascio fare, dai. Se coincide più tardi, al limite, tanto va. Ciao a tutti. Ciao. Misurandomi le stazionarie. E andava, là. Avanti, gare che frucende. No, sono sempre io, Anto, che mi sono radio, volevo vedere se era collegata. Sì, va. Ciao. Ciao a te. Chi sei? Gian, no? Gianni, sono lui. Kappa, dici? Sotto casa a due, come ti dicevo che arrivi? ancora non ti sei arrivato, no? Quanto ti arrivo, tu? Quasi 9:40. Guarda, adesso sei diminuito. No, non ho diminuito nulla. Dove sei già? A casa sono. Non sei a casa. E tanto no. E cosa marazzurci si trattende? Un baracchino. E vai, non vi grido. Kappa, È un bel forte, sta arrivando già. Gianni, ci sei? Sì, ma dice che hanno bruciato macchine vicino a te, vero? Ehi, hai bruciato macchine. Cazzo, pure al monte. Ehi, a Ciappallo. Tu sei la giusta che abbia abbigliato, che sono deficiente che l'ha fatto. Oh, ci sentiamo dopo, sto tornando a cenare, poi già sono qua in San Antonio già. Ok, cra, non c'è problema. E mi accorgo, eh. Andami! Ah, sì, sta vicino a casa. Non gridare già. Ecco. Avanti il break. Ciao a tu, beh, Massimiliano. Lo so. Massimiliano, sì. Ehi, cosa sto fischiando? No, non stai fischiando. Chi è che sta fischiando? Ha fischiato appena appena quando è entrato. Forse non avevo schiacciato bene il microfono, là. Gappa, gappa. Ciao anche a Claudio, l'ho sentito. Già, allontanati il microfono dalla bocca. Allontanate, guarda, così va bene. Che microfono è questo? La stati. La stati, che mi sembrava riuscire meglio stasera, mentre mi sembra troppo compressa. Ciao Massimiliano, prova tu in distanza. Prova a vedere o già. Guarda, adesso l'ho abbassato come modulazione, dai. Guarda a vedere come sta andando adesso. Per la radio però, eh. Adesso sì, poco fa ce l'avevi troppo alto, allora io ci avevo le mie bicicletta col K, maledetta, mi sta riandando in distorsione, adesso va bene già, ottimo, ottimo, ottimo, dai, ci sentiamo dopo, riprendi con loro, già ci sentiamo dopo. No, dai, io devo andare a portare il cane, sta per venire Marco, devo tirarmi anche la pizza, stavo solo mio finito adesso, mi farei tutto. K, K. Ascolta, Mickey Gale c'è la manetta, così? Cosa? E tu il Mickey Gale al massimo, sì. Il Mickey lì? Aspetta che guardo, no. Eccolo qua. Sì, al massimo, è al massimo. Ok, va. Ma tu hai abbassato il microfono adesso, così? K. Un po' la bocca, vedete? Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo, lo vedi, è la musica a giamba. Ah, tu? Va a fare un passaggio già? 1, 2, 3, la gallina fa coccodetto. Allora fai la portante muta, no? A picchi di 25. Cava gara. Buona, ma ci ammassa. E così, guarda, Massimiliano, così come va? Sì, sei 9.30 pieno. Più forte, allora mi metti il contrario, tu infatti così. Perché, vabbè, tu mi hai detto che in fuori era di più e dentro di meno. No, ti ho detto al contrario io, in fuori la marcia bassa e dentro la marcia alta. Cava cava, dai, adesso già c'è, la lo vado. Cata su, cia. Cava cava, vabbè dai, continuate voi. Ho rilanciato Antonio, ma no, non l'ho sentito, deve essere, boh. Massimiliano, stai sempre fischiando, eh. Vero. E cosa c'è che sto fischiando, boh? Ah, c'ha lo microfono. No, il microfono, aspetta, lo cambio. Scusate, stavo parlando con Sara. Dammi il numero di telefono. Guarda, se sta ancora fischiando. Prova. Parla un po', tu. 1, 2, 3, prova. No, non fischia adesso. Ok, no, andava. Ma aspetta un attimo che mi metto il numero. Di mia cognata a telefonare. Cava cava, andrà bene. Eia, e beh, Massimiliano. E io che gioco. Cappa cappa. Io schioppettenti e inchipi. Abbastanza, già va bene. Eia, ogni tanto c'è questo innesco, come mai? Ma da me, Eia. Cosa ne so, buh. Ma adesso no, adesso no. Adesso non lo sta facendo. Ma che microfono è? Il suo dell'apparecchio? È un microfono palmare della CTE. Già va. La batteria mezzo carica. Non ha batteria, dice un altro. Dico se c'è la batteria. Sono di quei CTE normali. Tu, aspetta, mi metto le cuffie a vedere. Prova. Ora. Aspetta, alzo. Sto per l'ascolta. Ora. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Boh, io non le sento di dire che innesco. No, però adesso già sta andando bene. Ah, dai, un like. Ah, vero? La massa di nevaglia. Già che c'è una giove, il microfono, gappa. E cosa va? Piango di fava? Ogni tanto fai capricci, va. Ora, 1, 2, 3, prova. Ora. A me, Antu, la massa che ti nevaglia. Beh, da faradda. Una situazione bella. Ah, la foto te l'ho mandato. Bello. È una bella cosa quella, lì. Chiava, va bene. È bello, sì. Una bella situazione. Oi. La verità, contento. E Anto, scusa che stavo rispondendo la foto mi ha mandato. Aspetta, il microfono da parte, aspetta. Ora, 1, 2, 3, prova. Avanti. Ma a me si disegna. Ehi, se lo avete provato, dritto avanti. Ehi, gappa. Ehi, l'ho messo dall'altra parte il microfono, là. Per vedere se andava meglio. Sì, andava. Ah, Radio Bigliardo, due BL di 10 macchilite, di quelli buoni che io ce li ho avuti un periodo. Ah, mi ha fatto i bagassi euro. Oh, Massimiliano, dai, vi saluto che sto andando già a portare il cane, ci sentiamo. Gappa, dai, ci sentiamo. Chi è che sta chiudendo? Gianni sta chiudendo. Beh, ti arrivo già lì. Prova tu. 1, 2, 3, prova. Più scala c'hai lì. Qua è un po' guzzecco. E quanto segna? 9. Vai. Già, è secco questo, te lo giuro di bene, avaro. Comunque l'hai sistemata bene, là. Va bene. Va bene, sì. E dopo, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, anda bene. Anche io, Anto, io scendo giù a mangiare la pappa là, ok? E ancora io non l'ho cenato. Al limite ci sentiamo dopo. Ok, dai, al limite ci sentiamo dopo. Ti stavo dicendo, Massimiliano, tra me e Gianni c'è un po' di differenza, 80. No, vabbè, Gianni mi arriva un po' più forte di te, tu. Sì. Gianni mi arriva quasi 9.30 qua. A 9 a picchi di 25. Ma sono diverse posizioni, capito, Anto? Ho capito, e vabbè, la posizione è completamente diversa. Diversa posizione, diversa antenna e tutto, là. Dai, ci sentiamo dopo, Anto. Ehi, come io qua domino dall'altra parte. Ok, ciao, ci sentiamo. Comunque c'è una bella radio, la massa per scena. Già lo so, già. E poi io già la spingo, non ti preoccupare. Sì, se no non la spingo io. Io spingo in tutte e due le maniere. Puffala. Da dopo ciao, se no diventa un canale porno. Ehi, ciao. Ciao anche a Gianni e ciao a chi sta ascoltando. Ci sentiamo dopo, ciao. Però potrebbe non andare con Partito Democratico, è una scelta diversa. Sì, però potrebbe adesso la Meloni ha fatto stasera. Attenzione, 10, c'è qualcuno? Attenzione 10, attenzione 10, copiate Antonio K. Ciao, vedi? Prova. bene. Aiuti, sta, deve stazionare. Canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione, canale 10. Hola. Hola. Hola. Hola. Attenzione, canale 10, cambio.